1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:20 minuti, ci siamo, cari ascoltatori, siamo qui alla lettura dei giornali con tanti temi, ovviamente ancora la politica in primo piano, la lettura del dopo voto. Andiamo. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a mercoledì 8 giugno, i titoli, le aperture, il Sole 24 Ore, casa, bonus, lavori a più 38%, compravendite in ripresa. Questi sono i dati in prima pagina del Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera, voti e ballottaggi e subito scontro PD 5 Stelle. Siamo dunque nella politica. Così Repubblica, Renzi, strappo con Verdini, il voto dei giovani per il Movimento 5 Stelle. Per la Stampa, caccia i voti per i ballottaggi. Il Messaggero, il piano Renzi per il nuovo PD. Mentre per il Fatto Quotidiano è il governo della minoranza. Renzi e compagni rappresentano meno di un terzo per cento, di un terzo dei votanti. Poi Il Giorno, si vota, meno tasse per tutti, promesse elettorali, Renzi manda avanti Padoan, taglia l'IRPEF già nel 2017. E così Il Giornale, vogliono tassare i mutui, questo è il titolo di prima pagina. Insomma, queste alcune delle aperture, poi ne vedremo altre, però voglio subito andare a leggere, non voglio partire dal voto, l'analisi del dopo voto, voglio partire da, per esempio, un articolo, uno di quelli che come solito si fa leggere, di Domenico Quirico, inviato della Stampa, che racconta da Nouakchott in Mauritania, dunque in Africa. Che cosa? Parla di schiavitù. Ma come scrive Quirico, esistono parole che fanno male come un morso, parole che non si possono dimenticare né perdonare, parole che contengono veleno come il morso di un serpente. La parola schiavitù, ma non nel senso in cui noi occidentali la usiamo come sfruttamento economico, il mal prezzo pagato a una fatica. No, no, nel senso antico, la proprietà fisica di un uomo, disporre del suo destino e della sua vita, di ciò che è, fa, pensa, diventa, fin da bambino. Che puoi prestare all'amico che ne ha bisogno, cedere ai figli come dote quando si sposano, che diventa schiavo automaticamente nel momento in cui nasce da una schiava. Nel terzo millennio, questa realtà che emerge porta addosso i segni dell'abisso come un cetaceo naufragato con le proprie alghe, insieme ucciso e vitale, me la trovo davanti sulle coste dell'oceano, in Mauritania, dove gli schiavi sono tutti Aratin, i mori neri che rappresentano il 40% della popolazione. E qui Domenico Quirico inizia un viaggio proprio in Mauritania, pagina 2 e 3 della Stampa, tra gli schiavi della Mauritania. Migliaia di neri continuano ad essere proprietà degli arabi ricchi. L'Islam è per i padroni, questo è il titolo. E racconta l'arrivo nella capitale Nouakchott, racconta dei bambini, molti bambini, e non bisogna mai chiedere chi è il padre, non è educato, gli schiavi conoscono solo la madre, il padre può essere il padrone, o uno dei suoi figli, o un altro schiavo, irrilevante. E racconta in questo lungo viaggio che vi segnalo, appunto, e che vi invito a leggere, che cosa significa essere schiavi nel senso proprio più antico del termine. Ancora oggi, nel 2016, cuore dell'Africa. E da questi paesi partono molte delle persone che poi arrivano anche in Italia col sogno di arrivare in Europa, oltre che sbarcare sulle nostre coste. E a questo si lega un articolo che ho letto sul giornale e che ha fatto abbastanza discutere. È una sentenza che riguarda un cittadino del Gambia. È povero, può restare. Il giudice apre le porte al migrante economico. Antonio Ruzzo lo racconta sul giornale a pagina 15. Un giovane del Gambia chiede il permesso di soggiorno e il magistrato si chiama un giudice civile, Federico Salmeri, prima sezione civile, dispone che in questo caso non si deve procedere al rimpatrio, perché la persona è povera e dunque ha diritto in base non perché è perseguitato, non perché è un profugo, non perché scappa dalle guerre, ma semplicemente perché è molto povero, ha il diritto alla protezione umanitaria come un profugo. Ovviamente questa sentenza, scrive il giornale, che ha scatenato le reazioni del segretario della Lega Salvini, può aprire anche a nuove sentenze simili. E il giornale racconta tutta questa vicenda a Milano, a pagina 15. Vogliamo saltare una vicenda che riguarda invece una cittadina nostra italiana che invece è stata arrestata perché stava per andare, così almeno dicono i magistrati, per partire per la Siria, per compiere il martirio come le impone, secondo lei, la sua nuova religione, cioè l'Islam, alla quale era convertita all'Islam per compiacere il marito tunisino, Sara Pilè, 24 anni, professione casalinga, almeno questo c'è scritto sulla carta d'identità, è stata arrestata perché indagata, pronta a partire per la Siria. Mara Rodella lo racconta a pagina 19 del Corriere della Sera. Sui documenti alla voce professione c'è scritto proprio casalinga, ma pare che la sua vera vocazione fosse diventare martire in nome di Allah. Era convertita all'Islam, indossava il niqab integrale, ha imparato a leggere e scrivere in arabo. Su Facebook nelle ultime settimane i continui inni al martirio: vivo qui solo col mio corpo, ma la mia anima e il mio pensiero sono in un posto molto lontano. E ancora, oh Allah, ti chiedo una morte nel tuo sentiero, il paradiso, giuro, non riesco a aspettare. Insomma, è stata fermata perché è stata indagata per arruolamento in qualità di arruolata con finalità di terrorismo. E tutti i giornali le parlano, non solo il Corriere della Sera. Allah, morirò da martire in Siria, è una pagina dedicata dal Giorno a questa vicenda, ma anche Repubblica dedica una pagina alla sposa della Jihad, pronta al martirio, pagina 19. A proposito di immigrati, eccoci qui a quello che è invece il premio Mani sul Volante, l'articolo che mi fa pinzare della giornata, e lo troviamo su Libero. Lo trovo su Libero, il titolo è «Dimettete i pazienti per far posto ai profughi». Di che cosa si tratta? Si tratta di questo, lo racconta Francesco Borgonovo, una folle circolare in ospedale che è stata pubblicata da un deputato sardo del partito Unidos, Mauro Pili, che ha pubblicato sul suo profilo Facebook un documento riservato firmato dal direttore di presidio dell'ASL di Sassari, Bruno Contu, e diretto al personale medico ospedaliero. È datato 6 giugno, oggetto della circolare «Sbarco migranti a Porto Torres», scrive nella circolare: «Lo sbarco è previsto per stasera alle 20. Ci è stato comunicato che dovrebbe esserci presenti 198 uomini, 126 donne e 68 bambini. Al momento attuale non siamo a conoscenza delle reali condizioni di salute, ma è probabile che vi sia la necessità di assicurare loro cure ospedaliere». E fin qui tutto a posto. Ed ecco la soluzione del responsabile dell'ASL. Proprio in previsione di questa situazione, si chiede ai signori direttori delle unità operative di ricovero di accelerare le procedure di dimissione, provvedendo sia in mattinata sia nel tardo pomeriggio. Insomma, riassume Libero, tradotto dal burocratese, dimettete al più presto i pazienti per fare spazio agli immigrati. Questo è il titolo di Libero, che fa capire, insomma, come non siamo all'emergenza, siamo alla gestione folle. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il Francesco Totti dell'informazione. Eccolo qua. Se siete sopravvissuti alla pubblicità, eccoci qua, sono le 7:34 minuti, cari ascoltatori. E come dire, Francesco Totti tra l'altro entra incredibilmente a campagna elettorale, tra poco lo vedremo. Intanto ne esce per il momento, per qualche giorno, Silvio Berlusconi, che è ricoverato da domenica sera, si è saputo però solo ieri, al San Raffaele per uno scompenso cardiaco. Ovviamente tutti i giornali raccontano la cronaca, tutti a caccia di dettagli. Il suo medico personale, il dottor Alberto Zangrillo, non dice molto di più se non è tutto sotto controllo. L'ordine di scuderia di Zangrillo è non fare entrare nessuno nella stanza al sesto piano dell'ospedale San Raffaele. Comunque, scompenso cardiaco per Berlusconi, ma il Corriere mette in maniera chiara: non è in pericolo di vita. Però si racconta di una situazione non semplicissima e anche di possibile coronarografia. Questo racconta Simona Ravizza, cioè un accertamento invasivo che permette di controllare in modo più approfondito la presenza di eventuali restringimenti delle arterie al quale potrebbe essere sottoposto Berlusconi nei prossimi giorni, e quindi fino a giovedì, forse venerdì, potrebbe rimanere in ospedale, dunque fuori dalla campagna elettorale. La questione invece sul dibattito dei numeri: abbiamo vinto noi, no, guardate come siete calati, no, voi, ma voi di più, voi di meno. Mi appassiona come una commedia teatrale in bulgaro, signori, in bulgaro anche stretto, diciamo, di un dialetto proprio locale bulgaro. Però c'è tutto questo dibattito, cioè i politici, invece di chiamarsi, si utilizzano la stampa per mandarsi accuse e contraccuse. Di certo interessa di più il retroscena sui giornali riguardo a che cosa? Beh, intanto Maria Teresa Melli racconta sul Corriere della Sera, pagina 4, il classico retroscena renziano. Renzi dice ai suoi collaboratori: ora dovete attaccare i 5 Stelle, far capire agli elettori tutte le cose del loro programma che non funzionano. Questa è la linea. Non dico che Giachetti debba essere troppo aggressivo con la Raggi, ma deve incalzarla, far capire belli quali sono le differenze tra loro e qual è il rischio che i romani corrono affidando la capitale all'inconcludenza dei grillini. Questo è la linea di Renzi in questi 15 giorni. E per questo Renzi ha deciso anche di rilanciare il tweet favorevole alle Olimpiadi della campionessa di scherma Beatrice Vio. Un altro tasto su cui il premier intende battere è proprio questo: Roma 2024, sfruttando il fatto che Virginia Raggi è contrarissima invece alle Olimpiadi della capitale. E dunque questi saranno i 15 giorni in cui si parlerà di Olimpiadi. Ecco perché Totti, in qualche modo ingaggiato, ovviamente ingaggiato lo metto tra mille virgolette, in realtà ingaggiato solo dalla Roma, visto che ha firmato il rinnovo, ma ingaggiato nella battaglia, nell'agone politico, ha detto sì alle Olimpiadi, sì, sì, viva Totti! Ed ecco il dibattito: le Olimpiadi sono giuste? No, le Olimpiadi scelta criminale. Io, col mio notorio populismo, come dice qualcuno malissimo informato, qualcuno va in giro a dire questo, dico che ai romani non credo che interessino moltissimo le Olimpiadi, soprattutto la campagna elettorale. Li metteranno, credo, chiedetelo a 100 romani che incontrate per la strada, credo la metterebbero al centesimo posto. Prima ci sono le buche, i trasporti, i servizi pubblici, il tassi che funziona, l'acqua che arriva, le tasse da pagare, devo continuare? Se volete anche poi arriva la cultura, tutto, cioè, poi al centesimo posto penseranno eventualmente alle Olimpiadi 2024. Però è anche vero che alle Olimpiadi bisogna pensarci con anticipo se uno vuole fare la candidatura, questo è giusto. Comunque il dibattito sulle Olimpiadi è che entra nella vicenda del ballottaggio. Un'altra lettura interessantissima sulla politica è invece, questo lo dico senza davvero ironia, il rapporto tra Renzi e Verdini, perché guardate che oggi i giornali raccontano due realtà anche diametralmente opposte, almeno se si prende da una parte il Corriere e Repubblica e dall'altra parte La Stampa, per raccontare il rapporto tra Renzi e Verdini. Stando al Corriere della Sera e a Repubblica, Renzi è delusissimo dell'accordo con Verdini. Sentite qui Francesco Verderami, pagina 11 del Corriere della Sera. Quando l'ha visto entrare domenica notte, Renzi ha cercato il suo sguardo, cioè lo sguardo del sottosegretario Lotti, amico da una vita. L'ha guardato e gli ha detto: l'alleanza che avete fatto non ha dato grandi frutti. Ecco il titolo del Corriere. Il segretario, cioè Renzi, disse a Lotti: bei frutti l'alleanza con Denis. Insomma, Renzi ha lasciato i cocci di questa alleanza sbagliata a Lotti. E a quel punto, forse, a Lotti deve essere venuto in mente ciò che il giudizio pronunciato una volta da Berlusconi sul giovane Matteo: Denis è cattivo. Insomma, secondo il Corriere della Sera, Renzi, delusissimo di questa alleanza con Verdini che ha appoggiato il candidato soprattutto a Napoli, la Valente, e il fallimento. Così anche Repubblica. Sentite addirittura Repubblica cosa mette a pagina 2. La nuova strategia di Renzi è questa, il titolo, il piano B di Renzi. Non è mai esistito il partito con Verdini. Il partito della nazione non è mai esistito, o meglio esiste, ma è solo un partito d'aula, sono solo alleanze parlamentari. Siamo più forti di tutti, aggiunge Matteo Renzi in questo lungo retroscena di Goffredo De Marchis, ma il concetto è mai con Verdini. Tanto che Tommaso Ciriaco a pagina 3 replica, fa replicare in qualche modo lo stesso Denis Verdini. Siamo tutti a retroscena. È Denis Verdini che ufficialmente non parla, ma secondo Repubblica dice senza di noi il governo cade. Al Senato lo sanno tutti, siamo decisivi, il PD non può fare a meno di noi, basta un colpetto e non lo aiuteremo più. E vediamo se sarà capace di andare avanti, ma sia chiaro che a quel punto i nostri voti li impiegheremo per un altro governo, si scordi di andare al voto anticipato. Quindi questo sarebbe il rapporto, secondo il Corriere, secondo Repubblica, tra Renzi e Verdini, agli stracci dopo la prima tornata elettorale. Poi uno salta sulla stampa, vede, va lì sulla stampa, trova un altro retroscena, quello di Fabio Martini, e scopre che forse è tutta una commedia. Sentite qui il giallo secondo Fabio Martini. Si vocifera di un nuovo accordo tra Matteo Renzi e Denis Verdini. Uno di quegli accordi che, come sempre nella politica italiana, assomigliano alla famosa araba fenice. Che il patto ci sia, ognuno lo dice. Dove sia stato stretto, nessuno lo sa. Qui sembra tingersi tutto di giallo. Si tratterebbe del patto del gatto pardo. Lo dice sotto anonimato e lo conferma un deputato di Ala, il gruppo di Verdini. Il patto del gatto pardo. Tutto cambi perché nulla cambi. E cioè cosa prevederebbe questo patto? Il patto prevede proprio quello che scrive Corriere Repubblica. Renzi e Verdini litigheranno in pubblico, ma la sostanza non cambia. Al massimo ci terranno fuori dai comitati per il sì al referendum, dice questo onorevole verdiniano, ma la sostanza non cambia. E poi, per tingere proprio di grande, con grande manone di giallo questo racconto, il parlamentare va dal Corriere, dal giornalista della Stampa, e dice: io naturalmente non le ho detto nulla. Ah, il patto del gatto pardo ci sarà? Non ci sarà? Mauro Meazza, a proposito di gattopardi, eccolo qua. Buongiorno. Valuteranno gli avvocati, caro Alessandro, se gattopardo può essere poi ascritto nella lunga lista di contumelie con le quali mi introduci ogni mattina. In ogni caso, sul Sole 24 Ore di oggi, il ministro dell'economia dice che forse, si potrebbe anche anticipare una riduzioncina dell'IRPEF al 2017. Leggi Davide Colombo a pagina 2. So. Per intanto sembra qualche giornale è un po' maligno dicendo si vota, si abbassano le tasse, però. Taglio IRES confermato per il 2017 e poi nella legge di stabilità il taglio IRPEF dal 2018, ma magari anche prima. Comunque questo sul Sole 24 Ore, che, come citavi bene in apertura, si dedica appunto alla ripresa, a questo risveglio del mercato immobiliare. C'è stato appunto questo confortante dato di una ripresa del 20% a livello nazionale nelle compravendite. Tutti i particolari in pagina 3 oggi sul Sole 24 Ore. Con il Sole 24 Ore, caro mio, come già t'ammonii ieri, perché oggi con il Sole 24 Ore ci sono 16 pagine dedicate a all'IRAP. Ma mai una gioia proprio, all'IRAP. Ma perché parliamo di IRAP? Che è una tassa che resta, Sì. È un'imposta che resta, perché dopo le decisioni della Cassazione sono cambiate diverse cose, ad esempio per i professionisti con un solo dipendente operativo. Quindi con il Sole 24 Ore di oggi, in questo allegato speciale, ci sono tutte le precisazioni attuali per appunto l'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, molto e molto altro. Ma per fartela così un po' breve, ricordati di leggere norme e tributi, perché continuiamo con i chiarimenti in materia di IMU, ad esempio se hai comprato la casa nel corso dell'anno ma ancora non è la tua prima abitazione, allora come ti devi comportare? C'è la risposta in norme e tributi. E poi, tra l'altro, i tuoi 2 eurini, non è che hai fatto un conto in dollari, in yen, in qualche valuta, in sterline? Perché allora stai attento, perché lì su certe movimentazioni poi ti devi ricordare di dirlo a Paduan, il signore di prima, cioè sì, all'Agenzia delle Entrate, sì, diciamo, vabbè, alla signora Orlandi, e riportarle appunto in dichiarazione dei redditi. Come si chiama, che me lo segno? Il conto in valuta? No, il signore che... Il signore, che il ministro dell'economia, che vuole saperlo, si ci tiene molto. Okay, e anche la signora Orlandi desidera tanto sapere se tu hai movimentato i 2 eurini in valute estere. C'hai un numero, un indirizzo? No, guarda, basta che compili quel formattato lì, hai presente, riempi le caselline e poi glielo mandi, loro sono contenti così. Ma metti 2 righe che sembra carino, magari, sempre educato. Okay, Non facciamoci riconoscere. Oh, poi... ho molte altre cose da dirti, vado molto molto svelto. Allora, sappi che siamo alle strette finali per il decreto Madia, quello sui furbetti del cartellino, giusto, molto importante. Peraltro la Cassazione qui ha perdonato, ma trovi tutti i dettagli nelle pagine di Politica oggi del Sole 24 Ore, ha perdonato un dipendente che era stato proprio accusato di essere un furbetto del cartellino, ma per una questione di contratti non si poteva licenziarlo. E poi, sappi che stanno per avviare alla Telecom 9.000 dipendenti in smart working. Cioè, mentre tu stai per andartene in ferie, c'è gente invece che lavorerà anche da casa, caro mio. E quindi, a parte che sulle ferie adesso parleremo un attimo col direttore personale. Si sa, non sono confermate finché non... Esattamente. E poi ti voglio ancora dire che ci sono ancora dei ritardi sui pagamenti delle... fatture del Servizio Sanitario Nazionale. Dovremmo pagare in 60 giorni, ma se leggi nelle pagine di Imprese e Territori scopri che qualche regione paga a 650 giorni. Però, un po' come. Si vede che hanno trovato traffico! Alessandro Milan, dell'informazione, insomma. Finalmente. Allora, mandate le vostre sigle al 349-238-6666. Mancano un po' gli scioglilingua, non ci mandate più i ticket e tac e tac. Vabbè, mandateceli delle vostre regioni, le vostre lingue, dei vostri dialetti, quello che volete, insomma. Sempre per rimanere sul comunale e il ballottaggio, dicevamo ieri che il Fatto Quotidiano anticipava alcuni nomi della possibile giunta Raggi. Oggi la Stampa completa, nel senso che dice: vi anticipiamo chi saranno gli assessori in caso di vittoria Virginia Raggi a Roma. Lo fanno Jacopo Iacoboni e Giuseppe Salvaggiulo a pagina 13, oltre a Paolo Berdini, urbanista, che era citato ieri anche dal Fatto Quotidiano. Ci sono Tommaso Montanari alla cultura, storico dell'arte, è il nome prescelto. Ma così anche si parla di contatti con Carlo Verdone, l'attore, proprio lui, anche se è difficile vederlo in un ruolo gestionale. Avrà una figura chiave, sarà Daniele Frongia, ricercatore Istat, consigliere comunale uscente. E tra l'altro, racconta la stampa, ex campione juniores di scacchi come Davide Casaleggio, il figlio di Gian Roberto. E poi ci sarà anche un ruolo molto probabilmente da affidare al bilancio a chi ha Pasqualino Castaldi, attualmente uno dei sei subcommissari di Tronca. E dunque, insomma, una sorta di continuità. Per lo sport ha declinato l'ex calciatore Damiano Tommasi per motivi personali e si parla di un ex rugbista Andrea Lioi, questo per l'assessorato allo sport. E poi era circolato invece il nome di un dirigente comunale, Salvatore Romeo, per l'assessorato a tempo per le società partecipate, ma non si farà perché è un nome che divide. Questo secondo la stampa è un po' tutti in retroscena della giunta a Roma. Va bene, questo per quel che riguarda le comunali. Andiamo un po' all'estero, come abbiamo fatto all'inizio. Beh, i giornali raccontano che Hillary Clinton ce l'ha fatta con la nomination. Lei, come racconta Paolo Mastrolilli, femminista, tenace, secchiona, così Hillary Clinton ha imparato a non rinunciare al sogno. Il caso Lewinsky l'ha resa umana, la sconfitta con Obama l'ha resa più forte e ora Hillary Clinton, candidata per i democratici, è la prima candidata alla presidenza pubblica come donna e potrebbe diventare ovviamente anche la prima presidente donna degli Stati Uniti d'America. Così le primarie degli Stati Uniti, pagina 4 e 5 della stampa, si racconta insomma di Hillary Clinton. Vi segnalo anche per quel che riguarda la politica estera una pagina intensa sul Corriere della Sera. Marta Serafini racconta quella che è l'odissea di Fallujah, Iraq, dove si combatte una battaglia ovviamente lontano dalle TV, lontano dalle cronache, lontano dai giornalisti, o sono pochi quelli presenti. A Fallujah si combatte una battaglia tra l'esercito iracheno e l'ISIS. Voci dall'inferno. L'ISIS spara sui civili in fuga, restano solo i datteri e si mangia cibo per cani. Questa è la situazione di Fallujah, dove 50.000 persone civili sarebbero in trappola nella città delle 200 moschee, come è definita. E persone che sono fuggite in tutti i modi, nuotando sull'Eufrate, aggrappate ai gommoni di fortuna, schivando le pallottole dell'ISIS che non permette ai civili di fuggire proprio perché si vogliono schermare, coprire con i civili, usarli come scudi umani e quindi uccidono chiunque cerchi di lasciare la città. Bene, le persone che sono riuscite a lasciare Fallujah raccontano una situazione in cui si mangia cibo per animali, di solamente datteri secchi e scaduti come unico cibo rimasto, e di farina che costa 50 kg di farina $700. Questo è il prezzo al mercato nero ormai arrivato in Iraq. Pensate, 50 kg di farina $700. Questo lo trovate sul Corriere della Sera, reso conto di questa situazione. Un fatto di cronaca minore, ma che riporta la ribalta un personaggio che era noto nei tempi scorsi, negli anni scorsi, Luca Casarini, ve lo ricordate, il No Global, contestatore, eccetera, racconta il Corriere della Sera, è stato condannato in via definitiva a tre mesi da passare ai domiciliari per una vecchia occupazione di alloggi a Marghera. Lui dice, è vero, ho infranto la legge, ma disobbedirò. E quindi, non so, violerò il domicilio, il carcere, gli arresti domiciliari. Disobbedirò. Se mi dicono che sono il più grande disobbediente del mondo, sono onorato. Ma nella sentenza hanno scritto che potrei avere contatti con la criminalità organizzata. Non si escludono. Io allora dico no, ho sempre combattuto le mafie e disobbedirò questa condanna a 3 mesi ai domiciliari. Luca Casarini. Va bene. Siamo invece alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi Laura Rio sul giornale per una pagina intervista a Gerry Scotti che ci fa sapere che quest'anno lavorerà perfino a luglio. Ma chi se ne frega?